A Tempo di Sport di Giovanni Capuano. E siamo negli ultimi 20 minuti delle gare della 12ª giornata, gare che stanno dando dei verdetti importanti. Buon pomeriggio da Giovanni Capuano, un ringraziamento anche a Valeria Bernardi in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Dicevo, verdetti importanti, cominciando dal derby di Roma, dove la Lazio sta conducendo per 3-1 in rimonta dopo il gol iniziale di Lamela, le reti di Candreva e Klose ancora nel primo tempo e poi in apertura di secondo tempo il 3-1 di Mauri, ma Roma che sta giocando dalla fine del primo tempo in 10 uomini per l'incredibile assurda espulsione di De Rossi, che ha colpito in mezzo all'area di rigore Mauri con due pugni, dunque cartellino rosso per lui e Roma in 10 uomini. Sta perdendo anche il Napoli 2-1 a Genova contro il Genoa, reti di Immobile, pareggio di Mesto e 2-1 di Bertolacci, ha appena colpito una traversa Insigne, ma anche il Genoa aveva colpito una traversa sull'1-0, comunque partita ancora apertissima, così come è aperta la partita del Milan che sotto 2-1 in casa contro la Fiorentina. Nel primo tempo i gol di Aquilani e Borca Valero e poi al quarto d'ora della ripresa la rete del 2-1 di Pazzini. Milan che ha sbagliato un calcio di rigore con Pato nel primo tempo sull'1-0 per la Fiorentina e poi 1-0 del Torino sul Bologna, decide fin qui un colpo di testa di D'Ambrosio. 1-1 tra Chievo e Udinese, tutto nel primo tempo, Andreolli e Angella, e il Chievo ha sbagliato un calcio di rigore con Luciano proprio 2 minuti fa, dunque Chievo che ha mancato l'occasione per andare sul 2-1. E poi l'altra partita in corso, 0-0 tra Parma e Siena. Noi vi racconteremo l'ultimo quarto d'ora di questa giornata prima di iniziare con i commenti, la moviola e cercare di capire quali sono i temi di questa giornata. Io ricordo i nostri contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate, per parlare anche della Juventus di ieri sera, e poi 349 238 6666 per i vostri messaggi. Potete scriverci sulla pagina Facebook A Tempo di Sport trattino Radio 24 oppure via Twitter, l'account è @CapuanoGio. L'apertura però è dedicata al rugby. Io ringrazio e saluto nuovamente Giacomo Bagnasco. Buon pomeriggio Giacomo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Avevamo un accordo con la Federazione Italiana Rugby per avere un ospite in questo nostro spazio. Purtroppo 5 minuti fa ci hanno avvisato che non sarà possibile, però Giacomo, possiamo comunque parlare di Italia-Tonga. Lo abbiamo fatto già ieri in un breve spazio durante A Tempo di Sport. Oggi mi sembra, leggendo i giornali, di poter confermare quanto tu stesso dicevi ieri direttamente da Brescia, e cioè ci prendiamo la vittoria il 28-23, ci prendiamo la tripletta che non accadeva da 14 anni, dal 1998, però questa nazionale deve dare di più già a partire da sabato prossimo contro la Nuova Zelanda. E sicuramente questa nazionale, dopo aver affrontato per tanti anni consecutivi solo squadre al di sopra di lei nel ranking, è riuscita a fare questa tripletta contro formazioni che neanche a farla apposta invece stanno sotto nella classifica internazionale. 4 vittorie nelle ultime 5 partite, se vogliamo anche aggiungere il successo sulla Scozia all'ultima giornata del Sei Nazioni l'anno scorso, quindi 4 vittorie intervallate da una sconfitta in Argentina, ma è un'Italia che deve crescere. La formazione di Tonga è una formazione forte fisicamente, con giocatori che giocano anche in Europa, che hanno una buona tecnica individuale. L'anno scorso Tonga ha addirittura battuto la Francia ai mondiali, Francia che poi sarebbe arrivata in finale, ma diciamo che questo gruppo delle isole del Pacifico ha il problema di ritrovarsi di solito pochi giorni prima dell'inizio della tournée e quindi sostanzialmente non erano certo un avversario impossibile. Sì, quindi non bisogna farsi ingannare da questo record, i nomi li abbiamo detti, anche i nomi degli avversari che abbiamo battuto. C'è la vittoria contro la Scozia che ovviamente impreziosisce questo 4-5 di Jacques Brunel, ma c'è poco altro. Io credo sia più utile analizzare le ombre che le luci, soprattutto in virtù di quello che abbiamo visto ieri a Brescia. Ho letto e in parte ce lo lo dicevi tu anche ieri ad esempio, un'assenza quasi totale di idee, di gioco aperto, di gioco alla mano. È vero che tradizionalmente non siamo forti in questo settore, noi siamo forti nella mischia, siamo fisici, però è anche vero che probabilmente era lecito attendersi qualcosina di più. Sì, sicuramente, sai, nel primo tempo diciamo che il problema era addirittura più grave, era addirittura, come si suol dire, a monte, perché l'iniziativa veniva sostanzialmente lasciata agli avversari, che hanno avuto una grande supremazia territoriale, hanno giocato quasi sempre nella nostra metà campo, e quindi in quel caso ti trovi a dover difendere, ti trovi evidentemente ad avere delle difficoltà anche in difesa, a lasciare spazio agli avversari, che non chiedevano altro, essendo, come dicevi tu, anche degli avversari fisici e quindi in grado di spingere proprio fisicamente indietro la squadra azzurra. Quindi il primo tempo è andato male per quel motivo. Nel secondo, avendo un po' più di supremazia, sicuramente si poteva cercare anche di sviluppare più gioco. A quel punto però è chiaro che l'Italia si è accorta che riusciva ad avere la meglio con la mischia, e a quel punto in qualsiasi sport insisti soprattutto sul punto debole dell'avversario. Però ripeto, non è stata una partita brillante, ci sono stati alcuni giocatori, ieri abbiamo sentito proprio Alessandro Zanni, di Radio 24, Alessandro Zanni, che sicuramente è stato uno dei migliori. Bisogna crescere parecchio, sicuramente non ci possiamo fare illusioni contro la Nuova Zelanda, che tra l'altro, contrariamente a tutte le altre grandi, sta giocando, non ha giocato ieri ma sta giocando oggi a Edimburgo, e sta alla fine del primo tempo sta battendo la Scozia con il punteggio di 34-17. Quindi Scozia arriveranno caricati a palla, questa è la verità. Molto intanto carichi. Giacomo, scusa, c'è stato il pareggio del Napoli, diamo questo aggiornamento, questo lo ha segnato invece sì, lo ha segnato Cavani, 34esimo della ripresa, scattato sul filo del fuorigioco, poi alle 17:05 ci faremo raccontare da Graziano Cesari se al di qua o al di là di questa benedetta linea del fuorigioco, a me pareva posizione regolare, comunque 2-2 del Napoli a Genova. Prego Giacomo, dicevamo della Nuova Zelanda che arriverà caricata a pallettoni. Esatto, è probabile che magari rinunci a qualche giocatore dei più forti, anche per un turnover necessario, visto che dovranno poi giocare ancora altri due incontri. Comunque grande Nuova Zelanda, campioni del mondo, gli All Blacks, e olimpico esaurito, partita comunque da vedere e che l'Italia deve interpretare al meglio. Si può aprire un discorso leggermente più interessante, ma proprio leggermente più interessante, per quanto riguarda Italia-Australia, che si giocherà il 24. Sì, che chiude il trittico dei test match. Esatto, perché l'Australia, squadra che ha parecchi problemi legati a molti giocatori infortunati, ieri è incappata veramente in una brutta sconfitta in Francia. È chiaro che la Francia... Sì, anche se parliamo della Francia, pensare di poter fare l'equazione e ragionare, l'Australia perde con la Francia, quindi fra due settimane viene a Firenze e perde contro l'Italia, può essere un esercizio pericoloso, va preso con le molle. Indubbiamente, però diciamo che un'Australia che perde 33-6 con la Francia ci dice quantomeno di non essere al top. E l'Italia in qualche circostanza, ricordo a Padova 3 anni fa, se non vado errato, è stata in partita con gli australiani fino all'ultimo, ha perso 30-20. Quindi pronostico totalmente chiuso con gli All Blacks, diciamo che con l'Australia potremmo avere un 5%, mettiamola così. In ogni caso, intanto bisogna vedere come gli azzurri scenderanno in campo contro la Nuova Zelanda, che qui si tratta di tecnica, ma si tratta anche di spirito, di testa. Ci sono, soprattutto coi neozelandesi, sempre anche quasi dei problemi di tipo psicologico in certi casi. Ci sono giocatori di grande esperienza. E pesa quella maglietta nera che ti trovi di fronte, che per tutti gli appassionati di rugby, ma io credo per gli sportivi in generale, rappresenta un po' il massimo come espressione di questo movimento. Probabilmente trovarsela di fronte mette una certa soggezione, anche se oramai dovremmo esserci abituati. Sì, questo è vero. In ogni caso c'è il discorso della H, che è questa danza particolare che in altre nazioni viene accolta non da fischi ma comunque con il pubblico che un pochino rumoreggia anche per far capire ai propri giocatori guardate, noi siamo con voi, questi fanno la H. Noi invece abbiamo la venerazione dell'H. Noi invece abbiamo un silenzio totale e quindi praticamente quando alla fine della H, prima che cominci la partita, gli azzurri si rendono conto che questi 80.000 sono completamente affascinati, sarebbero disposti a mettersi in ginocchio davanti a questi 15 uomini, insomma non deve essere il massimo. Sì, in fondo un pochettino sotto sotto tifano per i neozelandesi, come del resto capita ad esempio quando arrivano i professionisti americani della pallacanestro in Italia, anche solo per delle amichevoli, sono eventi per cui l'appassionato italiano sotto sotto già sta coronando il sogno di poter vedere dal vivo questi mostri, di vederli negli occhi e non soltanto in televisione. E questo alla fine ha un riflesso, ha un peso anche su chi scende in campo. Per chiudere Giacomo Bagnasco, per chiudere Jacques Brunel, il cui bilancio 9 gare, 4 vittorie è assolutamente positivo, volevo capire il suo lavoro come viene letto e interpretato in questo momento a livello federale, perché c'erano grandissime aspettative. Sì, ma guarda, io penso che la federazione l'anno scorso con un presidente diverso abbia coronato un inseguimento a Brunel che era stato accostato all'Italia in diversi momenti in passato. È probabile che in attesa che si arrivi ad avere un commissario tecnico italiano e forse ci sarebbe già qualche uomo all'altezza di ricoprire questo compito, è probabile, dicevo, che comunque un francese sia anche psicologicamente più adatto a condurre gli azzurri. Brunel è un uomo di grande esperienza e anche di grande buonsenso, la sua parola d'ordine è equilibrio, dentro a questo equilibrio sta un po' tutto, nel senso che bisognerebbe, come sottolineavi tu, cercare di essere un po' meno orientati solamente sulla mischia, e questo è equilibrio, equilibrio è anche quello di cercare di difendersi bene ma anche di saper attaccare. L'equilibrio è una cosa che deve appartenere a una squadra, ma possibilmente come versatilità anche ai singoli giocatori. Questa è la missione di Brunel, bisogna probabilmente dargli ancora un po' di tempo, finora sinceramente non si sono viste grosse novità in questa squadra, però si può sperare che il lavoro dia i suoi frutti. Una cosa positiva di Brunel, se posso concludere, è la volontà di trovare tra i giovani italiani, anche nel campionato di eccellenza, delle persone, dei giocatori che possono crescere, che possono arrivare a livello azzurro. Sotto questo punto di vista, se fosse vero, io non ho riscontri precisi, che il nuovo presidente della federazione Alfredo Gavazzi pensa di mandare qualche suo incaricato nelle isole del Pacifico a dare un'occhiata, dei giovani, certo, da naturalizzare, io non credo che questa sia la strada giusta, francamente. Guarda, un tema che ci interessa, ti saluto e ti ringrazio, Giacomo Bagnasco, l'appuntamento ovviamente per sabato prossimo con Italia-Nuova Zelanda a Firenze, grazie Giacomo. Un tema che ci interessa, e saluto Walter Novellino, buonasera mister, buonasera, anzi buonasera. Buon pomeriggio, perché non sono ancora le 17, è buio perché piove un po' su tutta Italia, però tiriamoci su. Ci interessa perché oggi è la giornata dei giovanissimi e ha segnato una doppietta ad esempio Paul Dybala, che compierà 19 anni giovedì, e in molti hanno fatto notare in queste ore che ha la cittadinanza italiana pur essendo argentino e quindi sarebbe convocabile per l'Under 21, mister, e io credo sia utile anche aprire il dibattito sulla necessità o meno di provare anche a cercare altrove i nuovi italiani. Le chiedo però un minuto di pazienza, andiamo subito a San Siro dal nostro Dario Ricci perché c'è l'assalto finale del Milan. Dario. Sì, buon pomeriggio, 41esimo di niente, c'è qualche problema di collegamento, non importa, Milan che è ancora sotto 2-1 con la Fiorentina, in questi minuti è cambiato soltanto il risultato del Napoli che ha pareggiato a Genova contro il Genoa, la Fiorentina che però con Cassani ha colpito in contropiede il palo e dunque è andata vicinissima a chiudere questo incontro. Torniamo allora da Novellino, dicevamo mister, si sta ragionando anche sull'utilità eventualmente, e intanto è arrivato il 3-1 della Fiorentina, 42esimo e dunque comunque gara chiusa. Adesso vi diremo anche il nome del marcatore, credo El Hamdawi. Dicevamo, si è aperto anche il discorso sull'opportunità o meno di cercare altrove i nuovi italiani per Under 21 nazionale. Sì, sono d'accordo, anche se dobbiamo cercare anche in Italia, perché ce ne sono tanti. Forse ci siamo dimenticati un po' del settore giovanile, credo. Dobbiamo dare qualcosa in più, ci vogliono degli allenatori giovani, come sta avvenendo in Serie A, ma degli allenatori giovani che possono allenare e con una capacità anche nel settore giovanile, perché abbiamo anche in casa nostra diversi talenti che anche in eccellenza e interregionali, giocatori che possono crescere. È ovvio anche all'estero, cercando, per esempio oggi ho visto questo ragazzo del Palermo, devo dire che è molto molto forte, qualità, corsa. Sì, non è arrivato gratis al Palermo, perché credo sia il giocatore più pagato di questa sessione estiva del mercato, però penso che Zamparini non l'abbia buttati via i soldi. No, ma Zamparini non è un conoscitore, è diventato un conoscitore di calcio, un conoscitore di giovani talenti, poi c'è una grande organizzazione di settore giovanile. Ha segnato il Napoli con Hamsik, 90esimo minuto, Napoli 3-2 a Genova. Beh, queste sono squadre che hanno grande qualità. Che non mollano mai. Devo dire che stavo vedendo in modo particolare la Fiorentina, perché io sono stato 2 giorni e un giorno a vedere gli allenamenti della Fiorentina. Ho rivisto tutto il lavoro che lui ha fatto in partita. Questo vuol dire che abbiamo dei giovani allenatori molto bravi e evoluti. Io credo, ecco, ci vogliono anche nel settore giovanile dei giovani che possono far crescere questi ragazzi giovani che sono molto, molto bravi. Mister, ci fermiamo un minuto per le notizie sul traffico, poi torniamo, magari ripartiamo proprio da Montella, però parliamo anche di Quagliarella, che con lei a Genova, a proposito di giovani, è esploso e rappresenta nella Juventus un caso un po' strano, perché segna più di un gol a partita come media, eppure la Juventus, c'è anche sulle prime pagine oggi dei giornali, continua a cercare una prima punta, un attaccante, un top player. Traffico. Intanto ha segnato anche il Chievo 2-1 sull'Udinese, calcio di rigore di Paloschi, ma cantonata dell'assistente di destra del signor Doveri, perché in partenza c'era un fuorigioco abbastanza netto di un giocatore del Chievo. A Roma c'è un po' di nervosismo, è stato espulso per somma di ammonizione Mauri, un fallo di mano abbastanza sciocco a metà campo. Mauri era già stato ammonito, ma Roma che è sotto per 3-1, mancano 5 minuti più recupero. 2-2 intanto perché c'è la doppietta di Angella, 46esimo, 2-2 tra Chievo e Udinese. Novellino, stavamo dicendo di Quagliarella, autore ieri sera di una tripletta e che ha numeri in questo primo scorcio di stagione, nel quale ha giocato davvero poco, meno di 500 minuti, da assoluto top player, segna un gol ogni 55 minuti. Eppure la Juventus continua ad andare a cercare all'estero il top player che manca. Intanto 3-2 della Roma. Quagliarella, quando l'ho allenato, era giovane e aveva fatto, inizialmente non voleva accettare di giocare esterno destro alto, poi anch'io mi sono convinto che poteva fare la punta centrale, come sta facendo, ha fatto dei gol meravigliosi con noi a Genova. Devo dire che la Juventus cerca il top play, ma io credo che basta avere un po' di pazienza e dare un po' di fiducia a Quagliarella. Quagliarella è un giocatore che ha grande qualità, a corsa, a tiro, vede la porta. È ovvio che deve avere continuità. È chiaro che lui è una grande società, delle volte un attimino si deprime quando delle volte non gioca da titolare. Insomma. Sì, intanto ha segnato il 4-2 il Napoli in contropiede con Lorenzo Insigne, a proposito di ragazzi che di grande qualità. Oggi hanno segnato Lamela, che è capocannoniere, ha segnato Immobile, c'è stata la doppietta di Dybala di cui abbiamo parlato, adesso questo gol di Insigne che sta chiudendo la gara tra Genoa e Napoli. Vi invito ad andare a vedere invece il gol della Roma, il gol di Pjanic, incredibile, con un calcio di punizione da 40 metri che era più un cross, ma è stato perso dal portiere della Lazio in una giornata davvero nera per i due portieri. Però è anche vero che è incredibile, ad esempio, come ancora Quagliarella sia indietro nelle gerarchie dell'attacco della Juventus. D'accordo l'utilità, la necessità di rinforzare sempre la rosa, da questo punto di vista un giocatore, una prima punta di livello europeo certamente non fa male alla Juventus in prospettiva, però è anche vero che fin qui a Quagliarella la seconda chance, quando è un po' calato di rendimento nella Juventus, non è mai stata data. Ad altri, mi viene in mente Giovinco, invece viene concessa costantemente. Sì, devo dire che ecco, Quagliarella non doveva chiamarsi Quagliarella, ma doveva chiamarsi con nome tedesco oppure inglese. Era sicuramente il top play, che adesso va tanto di moda dirlo, che cercavano. Io credo che ce l'hanno in casa. È un giocatore, come ho detto prima, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di continuità, ha bisogno di serenità, ha bisogno anche... Ma io credo che Conti cerca in tutti i giocatori di stimolarli, perché credo che hanno tre competizioni e competizioni importanti. Per quanto riguarda Giovinco, ecco, è un giocatore che, secondo il mio punto di vista, si fa bene a dargli fiducia, perché ha grande qualità. È un giovane che a me piace molto, come Insigne, come Lamela, come Pjanic, tanti altri che abbiamo detto prima. È ovvio che giocando in una grande squadra non si può avere sempre una regolarità nel giocare, perché ci sono altri giocatori importanti, perché Vucinic, lo stesso Matri, sono giocatori che sono importantissimi e qualche volta si paga tra virgolette pegno, ecco. Ma lui non si deve abbattere, perché le qualità ce l'ha. È un giocatore che ha una qualità che è importantissima nel calcio italiano, che è un giocatore veloce e poi che vede la porta. Intanto la notizia di questo pomeriggio è che in cima alla classifica esiste ancora un campionato in attesa dell'Inter questa sera, perché fino a un quarto d'ora fa il Napoli era a 8 punti dalla Juventus, e non dico sarebbe stata una sentenza, ma certamente sarebbe stata un'indicazione importante sul prosieguo di questo torneo. Sì, sono d'accordo. Napoli, devo dire, con Insigne è un giocatore che ha dato... e Cavani, giocatori che hanno una qualità enorme, che la corsa, avendo corsa e poi avendo anche qualità, che è strano in tanti giocatori. Questi sono due giocatori che saltano l'uomo e che creano una superiorità numerica, e questa è la bellezza del nostro campionato. Ecco, sembrava a 20 minuti dalla fine, sì, che sembrava chiuso, al netto dell'Inter chiuso questa sera, e invece sono contento, si è riaperto tutto, diventa tutto più interessante. Grazie a Walter Novellino. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie a mister Novellino. Gare che si stanno chiudendo su tutti i campi. Si va avanti ancora a Roma, dove la Roma sta cercando l'assalto per trovare il gol del 3-3. Io ricordo i nostri contatti: 800 24 00 24 se volete chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. È aperta la nostra pagina Facebook a Tempo di Sport - Radio 24, oppure su Twitter l'account è Capuano Gio. Torneremo subito dopo il notiziario con tutti i finali, la nostra moviola e poi anche i vostri interventi per dirci che cosa ne pensate di questa 12ª giornata del campionato di Serie A. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. E ne stanno già arrivando tanti. Ci sono i tifosi del Milan imbufaliti con Allegri. Ancora una volta Allegri ha sbagliato tutto fin dall'inizio, a cominciare da Mexès, che già l'anno scorso ci faceva prendere gol determinanti, scrivono. E poi ancora un errore sostituire Ambrosini con Robinho, che è demotivato anziché mettere Nocerino. Dunque processo aperto per l'allenatore del Milan, così come credo a Roma sia apertissimo il processo per Zeman e soprattutto per De Rossi, che con la sua incredibile espulsione ha condizionato la gara della Roma nel derby perso contro la Lazio. Io saluto Graziano Cesari. Buon pomeriggio. Ciao. Graziano. Ciao. Allora, partiamo proprio dal derby e, se mi consenti, ma se ci consentiamo insieme, visto che spesso chi fa la moviola viene accusato soltanto di andare a cercare col lanternino gli errori dei direttori di gara, a me è parso per Rocchi di poter dire che ha arbitrato un derby con grandissima personalità e un derby tra l'altro reso difficilissimo dalle condizioni del campo. Devo dire assolutamente di sì, mi ha soddisfatto veramente, è una delle buonissime prestazioni di Gianluca Rocchi in questo ultimo periodo, un anno negativo lo scorso anno, quest'anno invece sta offrendo grandissime prestazioni. Sì, sicuramente il migliore come rendimento, e noi avevamo già detto un paio di settimane fa che probabilmente sarebbe stato l'arbitro giusto, ad esempio per la sfida di Torino tra Juventus e Inter, se non fosse che in quei precedenti c'è anche Inter-Napoli della scorsa stagione, e se di lui pesa ancora una sorta di anatema di Moratti, anche se io credo che nelle prossime settimane Rocchi tornerà anche ad arbitrare l'Inter. Lo spero vivamente, perché sta attraversando un ottimo periodo di forma, mi sembra molto sereno, molto tranquillo. Oggi ha dato prova di grande carisma, di grande personalità, soprattutto sull'espulsione dei Rossi, quando probabilmente era molto difficile cogliere anche la manata che ha dato il giocatore della Roma, in un momento molto particolare della partita, in un momento molto molto difficile. Non ci ha pensato due volte, è stato molto molto bravo. Veramente. Sì, solo un arbitro che sta bene si prende queste responsabilità, anche se poi, rivista l'immagine, è evidente che De Rossi va espulso, però era evidente anche che andava espulso Lichtsteiner a Torino, ad esempio, sabato scorso. Poi bisogna avere la personalità e la freddezza per farlo. Esatto, proprio questo, abbiamo visto un Rocchi veramente molto molto tranquillo, è la serenità, la convinzione di essere in un momento di forma eccezionale, di essere stato selezionato per i mondiali del Brasile, di essere impiegato sempre continuamente in Champions League, lo ricordiamo l'ultima partita a Barcellona. È un periodo estremamente positivo, oggi ha proprio centrato tutti gli episodi. Allora, hai già accennato all'espulsione di De Rossi, siamo davvero nel finale del primo tempo, siamo già in tempo di recupero e De Rossi dà una doppia manata a Mauri. Esatto, un sinistro al volto di Mauri che mischia dentro l'area di rigore in attesa di un calcio di punizione in una zona di un traversone all'interno proprio dell'area di rigore con la Roma in attacco, ed è stato bravissimo a cogliere quello Rocchi, di un arbitro concentrato, di un arbitro che sta guardando cosa succede all'interno dell'area di rigore, che non ha paura di prendere un provvedimento importante. Espulsione ampiamente meritata, quella del centrocampista della Roma e della Nazionale, ma con un Rocchi in posizione molto felice e determinato. Sì, davvero una follia, ma di questo poi ne parleremo con il direttore del Corriere dello Sport, Paolo De Paola. Partita comunque ricca di episodi, protesta la Lazio per una spinta sul gol dell'1-0 della Roma di Lamela, siamo al nono del primo tempo. Probabilmente è vera questa situazione, c'è una spinta di Lamela che toglie il pallone che dalla testa di lui, quindi vanifica l'intervento del centrocampista della Lazio, ma certamente Rocchi non può vedere perché coperto da una moltitudine di giocatori, poteva aiutare l'assistente De Marco che non vede la spinta, e quindi il gol era probabilmente da annullare. Sì, davvero difficile però da pescare. Intanto c'è Klose, i microfoni di Sky Sport. Questa vittoria è molto importante per noi, per tutti i tifosi, tutta la società e per la nostra squadra. Molto difficile questo campo giochi oggi, ma facciamo una grande gara. Ti senti? Ho l'impressione, Graziano, che Klose sia stato aiutato sul gol del 2-1 dal campo rallentato, perché la palla gli è rimasta un po' lì sul piede e poi lui ha battuto Goico Ecea. Sì, la velocità della palla è quasi la palla come se fosse fermata, però è stato molto bravo Klose a stoppare col destro e poi a chiudere col sinistro. È un pezzo veramente da campione, anche perché lui precedentemente aveva chiesto proprio la palla così al compagno, quindi certamente il campo di gioco purtroppo... Sì, c'è stato un momento in cui si è rischiato di avvicinarsi alla sospensione. Ecco, esatto, proprio tanta acqua, le fasce laterali inondate proprio da acqua. Rocchi ha già interrotto la partita, lo ricordiamo, per un guasto alle luci per 3 minuti, ha preferito continuare, poi alla fine insomma ha avuto ragione lui. Sì, queste sono tutte difficoltà però per un arbitro in un momento e in una partita così tesa come può essere il derby di Roma, perché si perde anche un po' il ritmo, non lo perdono solo i giocatori, c'è il rischio che lo perda anche il direttore di gara con i suoi assistenti, e a maggior ragione promuoviamo a pienissimi voti la prestazione di oggi di Rocchi. Detto dell'espulsione di De Rossi, nel finale c'è stata invece, per somma di ammonizione, l'espulsione di Mauri. Sì, forse un pochettino forzata, però il secondo fallo di mano Mauri ha detto, ha ampiamente dimostrato, ha voluto dimostrare di aver toccato il pallone col petto, era molto difficile captare se il petto o il braccio. Certo che questo braccio che si allarga potrà in inganno anche sicuramente il direttore di gara, quindi mi sembra che la prestazione di di Rocchi sia perfettamente equilibrata e soprattutto uniforme. Sì, mi ha ricordato il secondo giallo a Nagatomo nel derby di bravissimo, qualche settimana fa, come ammonizione. Proprio così, proprio ci sono molte similitudini tra le due seconde ammonizioni. In tutto ci sono stati 9 cartellini gialli equamente distribuiti, 5 per la Lazio, cioè il doppio di Mauri, 4 per la Roma e poi il cartellino rosso diretto di Daniele De Rossi. Andiamo invece a Genova, Genoa-Napoli 2-4, mi incuriosisce l'episodio del vantaggio del Genoa realizzato da Immobile con un destro sotto porta. Qualche istante prima c'era un mani netto di Cannavaro che probabilmente sarebbe stato da calcio di rigore, giusto? Sì, esatto, è stato bravissimo in questo caso. Rizzoli gli ha concesso la norma del vantaggio e da questa norma del vantaggio Immobile ne ha usufruito e quindi ha battuto De Santis. Il mano di Cannavaro era un mani abbastanza largo, cioè il braccio sinistro si è allargato notevolmente, ma è stato molto bravo il direttore di gara ad avere questa intuizione felice. Non andava comunque ammonito poi Cannavaro? Andava ammonito Cannavaro, certamente, perché non aveva una chiara presenza della rete, soprattutto perché c'era volontarietà di interrompere la strada pericolosa. Allora, c'è qualche problema di linea, ti faccio una domanda, poi dobbiamo fermarci per il traffico e recuperiamo meglio il collegamento. Per chiudere la moviola di Genoa-Napoli sul gol del 2-2 di Cavani, lui scatta sul filo del fuorigioco, a me è parso in posizione regolare, però proviamo a rivederlo. Assolutamente regolare, il passaggio del compagno è perfetto, lui sceglie la tempistica giusta, bravo l'assistente Faverani a cogliere il momento ed è Canini che tiene in gioco Cavani. Questa per la moviola di Genoa-Napoli. Allora, un minuto, Graziano, che ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi torniamo, sta anche per arrivare Allegri, a Sky Sport. Traffico 800 24 00 24, il numero verde per parlare del derby della Juventus, ma anche del crollo del Milan in casa 1-3 contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri ha un volto terreo, è davanti alle telecamere di Sky Sport. Adesso vediamo se riusciamo a cogliere in diretta, le sue prime battute. Davvero un pomeriggio nero per il Milan, che ha sbagliato anche un calcio di rigore con Pato. Sentiamo Allegri. Martedì l'aveva segnato e credevo, ero convinto che potesse crescere, indipendentemente dal rigore sbagliato che può succedere. Credo che abbiamo perso contro una Fiorentina che ha un buon palleggio, però credo che abbiamo regalato due gol, non si possono regalare due gol così in questo modo, su due falli laterali, bisogna essere un pochino più cattivi. E dopo abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo avuto una grande reazione, però non è servita. Poi dopo è entrato Bojan, ha preso una botta e era zoppo, Bonera si è fatto male alla fine, questo non giustifica la sconfitta. Non si può, ripeto, prendere dei gol su due falli laterali senza togliere i meriti alla Fiorentina, che è una squadra che ha un buon palleggio. Mi sembra abbastanza sconsolato Graziano, Massimiliano Allegri. Questa è la settima sconfitta in 16 partite di questo inizio di stagione. Facevamo riferimento al rigore sbagliato da Pato, siamo poco dopo la mezz'ora del primo tempo, hanno protestato molto i giocatori della Fiorentina. Io invece devo dire assolutamente che mi sembra calcio di rigore. Sì, anche a me sembrava. Il è sconsiderato, cioè non potrà mai andare sul pallone quando prima del pallone c'è sicuramente Pato, si eleva moltissimo il giocatore centrale della Fiorentina, ma va proprio sulla schiena dell'attaccante, quindi lo abbatte in qualche modo. È un intervento di una vigoria sproporzionata rispetto a quello che si deve essere nei confronti di un avversario. Sì, c'è un eccesso di foga del difensore sull'attaccante, poteva risparmiarselo, buon per lui che poi Pato ha sparato alle stelle il calcio di rigore. Nel finale del primo tempo Romeo Grazia Bonera, che è già ammonito, trattiene a lungo Toni in mezzo al campo, era da cartellino rosso, o meglio da secondo giallo. Esatto, era da secondo giallo, così come in precedenza aveva graziato Ambrosini per un fallo non ammonito su Quadrado, quindi insomma ci sono delle situazioni imbarazzanti, così come per l'ennesima volta un allenatore, in questo caso Montella, si sostituisce al direttore di gara perché era Aquilani, è stato graziato una volta, è stato ammonito per un secondo fallo su Costa e poi è stato sostituito da Montella con Mattia Fernandez. Sì, era già accaduto sabato scorso a Torino con la scelta di Alessio di togliere Lichtsteiner. Da questo punto di vista, a livello di personalità, da rivedere le prestazioni di alcuni arbitri, così come abbiamo elogiato la personalità di Rocchi nel derby difficilissimo di Roma. Romeo oggi poteva certamente fare meglio, non mi sembra di aver segnato altri episodi. No, che possano far discutere in questa partita. E allora andiamo a Verona, Chievo-Udinese 2-2, l'arbitro era Doveri. Nel primo tempo, al 40esimo, c'è un gol annullato per fuorigioco a Lazzari dell'Udinese. Sembra proprio invece che la posizione sia assolutamente regolare, è un gol annullato per una segnalazione dell'assistente Ranghetti, che non vede la retroposizione dei difensori del Chievo, quindi sembrava assolutamente regolare. Intanto al 349 ci scrive un amico milanista: che colpa può avere Allegri se Pato sbaglia un calcio di rigore? Pato per rinascere ha bisogno di segnare, e la Fiorentina, anche senza Jovetic, che oggi non c'era, la Fiorentina ha comunque vinto largo, ha vinto bene a San Siro per 3-1. Ebbene, anche senza Jovetic la Fiorentina è un cattivo cliente, sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, compreso le parole riservate a Pato, di cui secondo me si è scritto troppo bene in settimana per il gol segnato al Malaga alla fine di una prestazione comunque non positiva. Sentiamo ancora un istante Allegri. Questo termine. No, ma sono d'accordo, è la verità. Non esiste che una squadra vada in difficoltà su un fallo laterale, anche perché la situazione di gioco è più facile, perché basta avvicinarsi a uno di una maglia diversa e non succede niente. Quindi invece noi siamo stati un pochino polli, un pochino leggeri. Quando c'è la rimessa laterale, forse pensiamo che è il momento in cui dobbiamo recuperare fiato, e questo non va bene. Bisogna essere, ripeto, più attenti, più cattivi. Quando giochi nei tre giorni è normale che ci possa essere un calo di tensione, soprattutto perché martedì abbiamo giocato una partita di grande intenzità. Va bene, cali di tensione, sta dicendo Allegri, però ad esempio il gol del 2-0, quello di Borja Valero, il Milan non lo può prendere, con Montolivo prima e Mexes poi, che lasciano il centrocampista della Fiorentina entrare fino all'area piccola di Abbiati senza contrastarlo. Torniamo Graziano a Chievo-Udinese, c'è nel secondo tempo, siamo al 23esimo, un rigore per il Chievo, poi lo sbaglia Luciano. Ho l'impressione che anche in questo caso Ranghetti abbia pasticciato. Sì, ha pasticciato, perché non è poi così che ha questa spinta di Danilo che affossa il giocatore del Chievo. È molto, molto, molto difficile questa segnalazione, però chiaramente anche in questo caso c'è una compartecipazione di Ranghetti nello sviluppo dell'azione. E poi invece arriviamo al calcio di rigore del 2-1, quello che Paloschi realizza. Siamo all'89esimo, quindi poteva essere il rigore della vittoria. Poi in realtà l'Udinese pareggia 2-2. E non c'è un fuorigioco di partenza sull'azione bravissimo, che porta al rigore. Bravissimo. C'è proprio un fuorigioco di partenza sull'azione che porta al rigore. Anche in questo caso devo dire che particolarmente significativa è la prova degli assistenti. Cioè assistenti tutti e due molto molto giovani, però in chiara chiarissima difficoltà. Anche in questo caso Di Fiore non si avvede la posizione irregolare, fa proseguire l'azione, da lì viene poi il rigore chiaramente. Intanto Giancarlo su Twitter scrive: questa sera rischiano Ferrara, Allegri, Zeman, Pioli e Del Neri. Del Neri credo sia alla terza sconfitta consecutiva, Ferrara addirittura alla settima. Poi cercheremo di capire a San Siro con il nostro Dario Ricci e i suoi ospiti se Allegri rischia qualcosa. È la quarta del Neri, sì. La quarta del Neri più uno di De Cagno sono cinque consecutive. Sette Ferrara, quella sporca dozzina a Genova, domenica prossima ci sarà un bel derby. Sì, il derby della paura, lo possiamo già rinominare così. Torino-Bologna 1-0, chiede un calcio di rigore Gilardino poco dopo il quarto d'ora del primo tempo, va giù in area di rigore, forse scivola, tu come l'hai vista? Non forse, ma scivola sicuramente, non c'è solamente contatto col giocatore del Torino, quindi fa bene a far proseguire il direttore di gara. E poi pochi minuti dopo, siamo al 21esimo del primo tempo, il Torino protesta per una serie di trattenute in area di rigore, protesta soprattutto Glick, mi pare di aver visto che Gervasoni in realtà assegna il calcio di punizione al Bologna. Assegna il calcio di punizione del Bologna, è giusta la decisione dell'arbitro Mantovano, perché anche Bianchi aveva trattenuto un giocatore del Bologna, quindi giustissima questo tipo di decisione. Era molto difficile perché c'era tanto traffico in area di rigore. Non ho segnato nulla per Parma-Siena. Esatto, nessuno. C'è solo un gesto della pistola di Cosmi, che poi mi andrò a vedere cosa è successo, perché in panchina ha fatto un gesto della pistola, probabilmente era una espressione, un atteggiamento così di diniego nei confronti dei suoi calciatori. Sì, Cosmi che era un altro della lista degli allenatori a rischio, direi che con questo punticino almeno per una settimana si mette tranquillo. Per la partita delle 12:30 invece mi sono segnato solo un'ammonizione per simulazione di Eder alla mezz'ora del primo tempo. Palermo-Sampdoria erano ancora sullo 0-0, Eder si è disperato, ho l'impressione che se la sia meritata, però dimmi assolutamente tu. Assolutamente sì, è molto motivata perché a contatto con Muñoz cade immediatamente all'interno dell'area del Palermo, non c'è assolutamente veramente contatto da due calciatori, quindi non è calcio di rigore. Un saluto a Graziano Cesari. Grazie a voi. Ci risentiamo domenica prossima. Ci sono Simone da Verona e Maurizio da Roma. Sentiamo però ancora Sky Sport Allegri. Quello che abbiamo fatto noi nella frente è una settimana di totale tranquillità dove ha preparato la partita. Purtroppo è così, quando giochi ogni tre giorni succede. Io l'ascolterei ancora a lungo Allegri, ma lei sa che l'ascolterebbe ancora a lungo, ma ho l'impressione che il disco di Allegri questo pomeriggio a San Siro si sia rotto su questa difficoltà di gestire il doppio impegno, e mi sembra sinceramente, ma questo è il mio pensiero, ditemi il vostro chiamando l'800 24 00 24, oppure via sms 349 28 6666, o su Twitter @CapuanoGio. Mi sembra, dicevo, un alibi abbastanza debole. Simone da Verona, buon pomeriggio. Buonasera, grazie a voi. Prego. Premetto che sono simpatizzante milanista e faccio i miei più vivi complimenti alla Fiorentina e a Montella. Sì, la grande Fiorentina, squadra. La Fiorentina ha preso un grande allenatore, ha un progetto serio. Montella non sono in grado di giudicarlo come allenatore, però per quello che ho letto è una persona seria, si è messa a studiare seriamente come insegnare il calcio, ha frequentato anche corsi di psicologia per capire meglio, diciamo, il rapporto tra l'allenatore e i giocatori, quindi penso che quello che c'è sotto la Fiorentina non sia frutto del caso o di fortuna, che può capitare, la classica fortuna dei principianti, come dice il proverbio, diciamo così, ma sia frutto di un intenso progetto e un intenso lavoro. Io mi chiedo a questo punto dove può arrivare la Fiorentina, dal momento che l'appetito viene mangiando, tra virgolette, e se questi giocatori, anche senza Jovetic in campo oggi, cominciano a capire che possono veramente affrontare a viso aperto chiunque, già abbiamo visto contro la Juve, contro l'Inter. Sì, sono sicuramente una squadra che ha ampi margini di crescita. Io credo, Simone, che la Fiorentina sia la squadra che può più guadagnare dal mercato di gennaio. In fondo gli manca una prima punta, anche se va dato atto a Pradè che l'investimento da pochi cent, quella monetina messa lì per riportare Luca Toni a Firenze, è un investimento che sta rendendo, perché Toni qualche gol lo fa, ma soprattutto Toni con i suoi movimenti in questo momento è molto utile alla Fiorentina. Anche oggi ha firmato l'assist per il gol dell'1-0 di Aquilani, e dunque credo che il rapporto qualità-prezzo di questo ritorno, su cui molti hanno sorriso alla fine del mese di agosto, il ritorno di Toni a Firenze, sia uno anche dei segreti, insieme a Montella, di questa Fiorentina. È la società che funziona, Pradè è un ottimo direttore sportivo. Maurizio da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dottor. Prego. Capuano. Niente, io sono anch'io milanista e sono letteralmente imbufalito, ma forse anche ormai indifferente. Io penso che se andiamo vicino alla retrocessione è qualcosa che ci sta e ci fa bene, perché per noi ci vuole un processo catartico. Noi abbiamo un allenatore che non dice la verità, dovrebbe avere il coraggio di dire: mi hanno smontato una squadra e mi hanno dato una barca di brocchi, perché sono tutti una barca di brocchi i giocatori del Milan. Maurizio, sentiamo un secondo Mazzari, Sky Sport. Vorrei invitare i telespettatori di mandare un sms. Questo è l'invito, oggi è la giornata della lotta contro il cancro, ovviamente. Sottoscriviamo anche noi l'invito a mandare un sms al 45505, però ci interessa la prima parte dell'analisi di Walter Mazzarri su questa gara del Napoli a due facce, primo tempo preoccupante in cui il Genoa meritava anche più del 2-1 e poi una ripresa soprattutto nella parte finale straripante fino alla vittoria per 4-2. Poi torniamo da Maurizio da Roma, allora vediamo se riusciamo a sentire Mazzarri. È tu che ti batti il pugno sul petto, sappiamo quanto ci tiene la tua privacy, però sappiamo tutti che non è stata una settimana facile per quello. C'è questo gesto che preoccupa. Dopo il gol del Napoli è andato a toccarsi il cuore Mazzarri. Ma queste sono immagini significative, perché a memoria non ricordo un segnale da parte del gruppo nei tuoi confronti così forte, così palese. No, ma io ho un gruppo di, l'ho detto la domenica passata, giovedì si gioca talmente tanto e perdo il calcolo del tempo. Comunque c'è un gruppo eccezionale. Io credo che sia stato un abbraccio anche per quello che avevo detto fra il primo e il secondo tempo. Insomma, c'è grande unione, ci vogliamo bene. Sono orgoglioso di allenare un gruppo così. La maggior parte poi lo sto allenando da 3 anni, ora è iniziato il quarto. Quindi è sto bene con loro, veramente. Che cosa vi siete detti a questo punto, se è possibile, dal primo e secondo tempo? No, ho detto delle cose, ho detto insomma che bisognava recuperarla questa partita. Stavamo perdendo, abbiamo fatto degli errori. Gli avevo già detto cosa avrei fatto dopo pochi minuti del secondo tempo, qualche cambiamento. e lo spronati a stare tranquilli, che l'avremmo addirizzata insomma questa partita, che sembrava veramente complicata a merito del Genoa. Questo è Mazzarri da Genova. Maurizio da Roma a chiudere il suo intervento, prego. Sì, velocissimo, voglio dire, siamo una squadra di giocatori mediocri, purtroppo. Non c'è dubbio. E le responsabilità, a mio avviso, non sono di Allegri o solo di Allegri, ma soprattutto di una proprietà che dovrebbe cedere la mano, perché non si può ridurre una squadra ai tempi di Giusi Farina, perché ormai siamo a quei livelli. E Galliani, con quelle sue affermazioni, ricordo ancora, dopo l'acquisto di De Gon e Bogian, due autentici brocchi, dire adesso dobbiamo lottare per lo scudetto. Queste sono le cose che a noi tifosi ci fanno davvero imbestialire. Grazie Maurizio. Ma io direi anche in tempi più recenti, perché questa settimana Galliani ci ha informato dei complimenti di Berlusconi per il gioco di Montella. Io davvero non vorrei essere nei panni di Allegri, al di là dello stipendio, perché è difficile tirare avanti la baracca in questa situazione. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, per parlare del derby di Roma, di De Rossi, di Zeman, della crisi del Milan, della Juventus, di quello che volete voi. 349 238 6666 per i vostri messaggi, la pagina Facebook A Tempo di Sport trattino Radio 24, o su Twitter l'account è Capuano Gio. Ci fermiamo, torniamo fra un minuto. 800 24 00 24, telefonate per dirci in diretta che cosa ne pensate. Saluto Dario Ricci da San Siro. Sì, buonasera Giovanni. 3-1 per la Fiorentina ed è uno dei risultati a sorpresa e più importanti del pomeriggio, insieme a quello del derby di Roma. A proposito di derby di Roma, Dario, allora fra qualche istante ti faccio sentire l'apertura di Petkovic, però intanto apriamo la nostra prima pagina. La Roma perde il derby, De Rossi perde la testa, la Lazio vince una gara emozionante condizionata dalla pioggia, Capitan Futuro prende a pugni Mauri e si fa espellere nel primo tempo, Zeman lo aveva schierato nel ruolo preferito, è la parola fine alla sua storia d'amore con i colori giallorossi? E poi il Napoli che risorge a Genova, resta in scia di Juventus e Inter in attesa dei nerazzurri, il campionato è bellissimo, in vetta alla classifica dove esplode anche la Fiorentina che passa a San Siro, il Milan è sempre più in crisi. E poi la Juventus che si interroga sul ruolo di Quagliarella, protagonista ieri sera a Pescara, segna un gol ogni 55 minuti anche se Conte gli concede solo ritagli di partite. La società continua a cercare un attaccante per gennaio, la domanda che facciamo noi è se valga davvero la pena non puntare sull'ex napoletano. La voce di Petkovic, Sky Sport. Lei ha saputo interpretare questa gara, anche giocare qualche volta con palloni lunghi quando era possibilità, c'era possibilità anche giocare il nostro calcio, ma soprattutto sul piano mentale, sul piano di impegno, di voglia di vincere questa partita, abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità. Certamente la Lazio ha fatto un grandissimo derby. Dario, domanda brutale, noi abbiamo sentito prima Allegri in diretta a Sky Sport, la domanda è se il Milan si sta interrogando in questi minuti sul suo futuro. Credo che la domanda sia ancora nell'aria, Giovanni, e sia legittima, perché oggi forse si è visto per la prima volta in questa stagione una scollatura, no? tra la squadra e il mister, perché la prestazione del Milan è stata a tratti sconcertante, soprattutto in quel primo tempo che invece Allegri, bontà sua, ha visto anche equilibrato. In realtà invece il Milan ha dato una sensazione di estrema fragilità ogni qualvolta la squadra provava ad allungarsi, e poi la scelta di rinunciare a Bojan per dar spazio a Boateng nella posizione, diciamo, immediatamente alle spalle di Pato, e poi la controprestazione dello stesso Pato aprono anche profondi interrogativi sulle scelte tattiche di Allegri. Ne ragioniamo con Franco Ordine, inviato del giornale, che sta componendo le sue pagelle. Franco, lascio la sorpresa ai lettori che domani acquisteranno il giornale, ma vedo ben poche sufficienze. Mi sembra inevitabile dopo la prestazione di oggi, che mi sembra un'altra volta il punto più basso dopo qualche segnale, timido segnale di ripresa, quella che io ho chiamato la ripresina, proprio risprofondato verso il precipizio. Ma è una squadra che sta giocando ancora per il suo allenatore, questa? Credo che non sia più questa la domanda. La domanda da farsi è un'altra: questo allenatore è in grado di rimettere in rotta il Milan? E questa è la domanda che dobbiamo, a cui dobbiamo dare una risposta. In questo momento sembrerebbe proprio di no. Anche perché, ecco, Dario, è la domanda che stanno facendo anche da casa. Io ti leggo alcuni sms pescati qua e là fra i tantissimi che stanno arrivando. Allegri sta facendo di tutto per costringere la società a esonerarlo, scrive Nicola da Como. E poi ancora Paolo da Prato: Allegri non crede in questo nuovo progetto e mi sembra non veda l'ora di essere esonerato. Sono in tanti che oggi non concedono alcun attenuante al tecnico. Beh, sicuramente oggi quello che ha lasciato perplessi è stato soprattutto lo schieramento del primo tempo e l'insistere soprattutto su Boateng in un ruolo molto particolare, in quel ruolo alle spalle della prima punta, in cui Boateng ha dimostrato più volte di non avere i piedi, come diciamo spesso al bar, no? Usiamo questa espressione per capirci. Non è quello il ruolo in cui Boateng può essere utile, soprattutto un giocatore che deve in qualche modo ricostruirsi anche dal punto di vista tattico dopo i furori delle precedenti stagioni, dove la presenza di Ibrahimovic ha esaltato molti dei rossoneri. Vediamo anche la parabola di Nocerino. Ebbene, in quel ruolo invece stava funzionando quel Bojan che inspiegabilmente è stato lasciato fuori nel primo tempo da Allegri per poi entrare nella ripresa al posto di Emanuelsson. In effetti un Milan un pochino migliore si è visto. Chiedo ancora a Franco Ordine. Franco, questa squadra da cosa può ripartire? Qua sembra che solamente Montolivo e lo stesso Bojan insieme ad El Shaarawy possano essere considerati dei punti di riferimento, visto anche che Bonera, l'altro tassello, l'altro elemento solido, continua a infortunarsi con preoccupante frequenza, anche oggi ha lasciato la squadra in 10 nel finale. Sì, infatti ci sono tutta una serie di valutazioni da fare. Allora, la famosa condizione fisica che doveva esserci, eccetera, non si vede, perché la Fiorentina è andata a 2000 all'ora. Gli infortuni continuano a esserci, infortuni uno ogni partita. L'altra volta è successo Abate, adesso Bonera. C'è un problema legato all'organizzazione difensiva, per cui oggi il Massimo presi due gol da palo laterale e soprattutto non c'è gioco, che è la cosa, il deficit più allarmante, più inquietante di tutti. La domanda che ti chiedo, Dario, di girare a Franco, poi lo salutiamo mentre tu resti con noi, è invece se esiste un mea culpa della società, perché io penso anche le parole di questa settimana di Galliani su Montella non aiutino Allegri, e del resto Allegri è da fine agosto che certamente non è aiutato dalle parole di Galliani. Eh sì, ecco, giro la domanda a Franco, mentre intanto in TV stiamo vedendo le immagini proprio dell'espulsione. Sì, dell'incredibile pugno di De Rossi a Mauri, davvero un suicidio. Proprio a bocca aperta, tra l'altro informo Franco, neanche convocato per questa espulsione da Pelli per l'amichevole con la Francia, De Rossi. Da studio, Franco, quali sono le responsabilità della società Milan in questa situazione, visto che anche questa settimana le parole di Galliani su Montella hanno reso ancora una volta incandescente, no, la panchina rossonera, e poi la situazione, i risultati parlano da soli. Io non credo che si possa parlare di responsabilità per le dichiarazioni. Il problema non sono le dichiarazioni, non sono le parole, il problema sono i fatti, il gioco che non c'è, l'insicurezza di questa squadra, cioè tutti gli aspetti che attengono al lavoro dell'allenatore. Qui le dichiarazioni sono il contorno, non sono la sostanza del problema. Grazie Dario, grazie. Grazie anche a Franco Ordine. Sentiamo Zeman, Sky Sport sta iniziando la sua analisi di questo derby che la Roma ha perso 3-2 contro la Lazio. Sentiamolo. Il gesto che ha fatto, io penso De Rossi, che noi abbiamo parlato per due giorni che non bisogna reagire, non bisogna dare all'arbitro, ha detto di fare delle ammonizioni, se purtroppo derby è derby e si sente troppo, poi quando si sente troppo si paga. Questa reazione di De Rossi è solo una delle cose che non ha funzionato, appunto i comportamenti individuali, stiamo vedendo le immagini, gli errori individuali, Goicoechea, Piris, gli errori strutturali, i limiti della squadra di essere continuo nei 90 minuti, perché ha fatto un bel calcio ma circoscritto ai primi 20 minuti. Qual è la cosa che ha condizionato di più secondo lei questa sconfitta, Zeman? Vabbè, io non direi errori strutturali, io ripeto, la squadra i primi 20 minuti ha giocato finché c'era campo che era adatto per giocare a calcio, poi con tanta acqua, la squadra ha smesso perché non riesce a giocare alla palla lunga come riescono a fare avversari. Poi derby è normale che è brutto perderlo, ma penso che la squadra fino all'ultima occasione che ha avuto poteva pareggiare, ha preso 3 gol, penso più per sfortuna che per bravura degli avversari, che sono bravi lo stesso. Questa è la lettura di Zeman. Ho l'impressione che non sia una lettura che soddisferà in pieno la gente della Roma, il pubblico della Roma, ma credo anche la società. Io chiedo un istante di pazienza ad Antonio da Milano, che ci ha raggiunto all'800 24 00 24. Ci fermiamo, notizie sul traffico, e poi ripartiamo da lui. C'è ancora Zeman a Sky Sport. Se no non si chiamerebbe gioco. Anche le condizioni atmosferiche, insomma, la Roma dovrebbe giocare solo col sole, quindi, perché sennò è difficile giocare con la pioggia, col campo pesante. Sì, risibile. Alcune delle spiegazioni date da prima da Zeman, e Mauro glielo sta facendo notare. Sentiamo la risposta di Zeman. Per tutti, certo è che noi cerchiamo di fare un altro tipo di gioco, cercando di combinazioni e cose. Le squadre che giocano su palla lunga sono avvantaggiate perché si allenano a quello. Io penso che non ho giocato con le caratteristiche di giocare quel calcio, e dobbiamo cercare di limitare i danni e cercare di proporre il nostro. Sì, certo, sarebbe meglio magari avere giocatori che sono in grado di tenere dal punto di vista difensivo. Antonio da Milano, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio. Io sono un tifoso del Milan, sto tornando dallo stadio. Immagino deluso. Sono abbastanza deluso, sì, ecco, noi ci piace spesso quando torniamo dallo stadio, ascoltiamo Radio 24, già dall'anno scorso ci piace intervenire, anche per dare un commento, insomma, su quanto riguarda il campionato. Purtroppo quest'anno si può ancora dire, perché il campionato vincerà in carrozza, credo, la Juventus, direi che non c'è nessuno che riesca a contrastarla, quindi quello che ci resta da fare, insomma, per intervenire, dare il nostro contributo anche a questo programma, è parlare di capelli di Conte, cioè l'unica cosa di cui riusciamo a parlare. Sì, va bene. Antonio, la ringrazio. Purtroppo la mamma degli idioti è sempre incinta, e ne abbiamo ospitato un esempio anche settimana scorsa. Conte si tiene i capelli che vuole, e noi purtroppo ci teniamo anche questi ascoltatori, e purtroppo commettiamo l'errore ogni tanto di mandarli in onda, anche se evidentemente la gente a casa lo capirà, è difficile far sì che questo non accada. Buon pomeriggio a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Buonasera, salve a tutti. È il problema della diretta, Paolo, che poi non ho sentito ma prima. I capelli di Conte, sai com'è, no? Purtroppo gli stadi e anche le radio sono popolate di tutto, e abbiamo sentito l'amico prima. Cosa ti sembra delle spiegazioni che sta dando Zeman invece della sconfitta del derby? Ha parlato anche del campo pesante. Beh, che si arrampichi un pochettino sui vetri. Non è insolito vedere uno Zeman che ricorre a queste cose, cioè alla fortuna. E poi se lui dice che la sua squadra non ha caratteristiche per giocare sui campi bagnati, e allora la Roma sarà sempre penalizzata per tutto l'inverno. Bisognerà aspettare che arrivi la primavera. Insomma, non mi sembrano giustificazioni all'altezza, diciamo, della qualità tecnica dell'allenatore. Devo dire che la Roma oggi è stato un campionario di errori, di rabbia, di nervosismo che è eccessivo, ed evidentemente è comunque una responsabilità sempre dell'allenatore. Guardate gli errori di giocatori che poi sono stati discussi in questa campagna acquisti: clamoroso quello di Piris, clamoroso quello di Goicoechea. Sì, Goicoechea sul gol del pareggio della Lazio, una punizione di Candreva, andava forte. Abbiamo visto adesso le immagini su Sky, 118 all'ora, è vero che pioveva, probabilmente ha preso una certa traiettoria, certamente il pallone era scivoloso, ma prendere un gol in quel modo, in un derby che fin lì comunque la Roma stava controllando, è qualcosa che non si può permettere un portiere. Al di là di tutto, ne ribadisco, è un portiere giovane, il quale avrà sicuramente numerose occasioni per riscattarsi, però ecco, in partite così importanti poi questi errori pesano e vanno messi in un conto che va addebitato anche alla società. La società ormai è un po' troppo tempo che sia nei derby e sia nell'andamento del campionato mostra dei limiti, delle lacune, insomma. La questione Zeman è una disputa ancora aperta. La questione della vendita, della cessione o meno, è un rebus che poi improvvisamente è diventato invece un qualcosa di meno dubbioso. Di recente, con le dichiarazioni della società, che ha ribaltato dichiarazioni che aveva fatto in estate, sugli acquisti della difesa che è lacunosa, è evidente che questa è una difesa lacunosa, beh, insomma i dubbi ce li portiamo appresso dall'estate, da parte della società che comunque dice di essere vicino alla squadra, ma di cui si ha una cognizione veramente molto rarefatta, beh, insomma, tutto questo si viene messo insieme da una spiegazione un po' decadente di questa Roma. Sì, Roma che con i tre di oggi ha incassato 23 gol, è la peggior difesa insieme credo a quella del Chievo e forse dell'Udinese in questo campionato. Un anno fa, dopo 12 giornate, Luis Enrique era quinto in classifica con 20 punti, aveva perso anche lui tanto perché aveva perso 4 partite. Al di là dei numeri, direttore, ho però l'impressione che un anno fa a questo punto ci fosse l'idea di un progetto. Io non so se oggi a Roma, e il Corriere dello Sport ovviamente raccoglie da vicino anche i pensieri e le emozioni del pubblico romano e romanista, c'è l'idea che quello di Zeman sia ancora un progetto? Ma guardate, c'è molto affetto, innanzitutto celebriamo comunque la vittoria della Lazio, assolutamente. Bella assolutamente della Lazio. Detto questo, nel processo che andrà fatto sicuramente sui mali della Roma ci sono parecchi punti e due punti sono molto dolenti e riguardano appunto Zeman e De Rossi. E su Zeman e De Rossi c'è una discussione apertissima. Molti sostenitori, anche quelli più accaniti di inizio stagione, difendono a spada tratta l'allenatore. Però ecco, tante posizioni, sia in avvicinamento sia adesso dopo questa partita, dopo il derby, sicuramente andranno un po' riviste. Su De Rossi anche la tifoseria è spaccata. Sì, io credo che la giornata di oggi sarà segnata col circolino rosso nella storia professionale di De Rossi a Roma. Sì, però ecco, io andrei su questa analisi approfondita sul perché di questo nervosismo. Perché? Perché De Rossi è stato schierato nella sua posizione più congeniale e quindi evidentemente gli è stato dato anche un carico di responsabilità improvvisamente dopo che c'erano state tante discussioni. E, evidentemente non ha convinto, perché comunque nella reazione rabbiosa della Lazio quello che è venuto meno dopo il gol della Roma è stato proprio il centrocampo. Per carità, l'acqua, tutto quello che si vuole, il terreno pesante, però è lì che la diga non ha retto. E allora bisogna interrogarsi su questo e poi anche sul nervosismo del giocatore. Sì, che pare salterà la convocazione nazionale perché per lui dovrebbe scattare il codice etico di Prandelli o quantomeno quella abitudine per cui chi viene espulso direttamente, tra l'altro in questo caso anche per un episodio particolarmente violento, non è poi convocabile. Penso che a De Rossi farà bene qualche giorno di riflessione, o no, direttore? Sì, io sono un ammiratore di De Rossi, lo dico sinceramente, però ecco, questo eccesso di nervosismo, anche quello che è successo nelle scorse settimane, in questo rapporto che si è incrinato e poi un po' tornato alla normalità con Zeman, c'è tanto che non va. Ecco, insomma, poi lui ha tenuto un profilo, devo dire, anche dignitoso, nel senso che non ha mai parlato di questa vicenda, è sempre stato in silenzio, però è evidente che c'è un malessere, un malumore che abbiamo registrato anche in alcune battute all'interno dello spogliatoio, dei corridoi. Insomma, sappiamo benissimo che all'interno della squadra non c'è un clima ideale, lo abbiamo visto anche dalla reazione di Pjanic, che dopo aver segnato il gol si è rivolto verso la panchina, sappiamo della sofferenza di Destro. Insomma, c'è qualche cosa che non va all'interno dello spogliatoio. Totti, da grande capitano qual è, ha cercato di creare un collante fra tutti i giocatori, giustificando in qualche modo, dicendo che l'allenatore è ancora incompreso da tutta la squadra. Sarà, però, fino a quando durerà questa incomprensione da parte dei giocatori nei confronti del tecnico? Sì, il tempo sta scadendo. Su tutto c'è ovviamente la gioia della Lazio, Lazio che è quinta in classifica a quota 22. Abbiamo sentito prima Petkovic, purtroppo giornalisticamente poi ci troviamo a fare il processo a Zeman e De Rossi. Saluto il direttore del Corriere dello Sport, De Paola, grazie per essere stato con noi. Un saluto a voi. Sentiamo Montella, Sky Sport. Che ci fa piacere che la gente sogni, che i nostri tifosi si rispecchiano nella squadra, che ci seguono e ci spingono con tutto questo entusiasmo, però noi lo dobbiamo recepire nella giusta misura per renderla energia e non arroganza, e credo che oggi la squadra l'abbia dimostrato e abbia avuto la lucidità di dimostrarlo, insomma, è la cosa che mi è piaciuto più di tutto oggi. Questa è la gioia di Montella. Sentiamo che cosa risponde su questa ipotesi di una Fiorentina che corra per un posto in Champions. Perché sia molto vicino. Mamma mia. Ai, ai, diplomazia proprio di quelle... Ha detto non mi sembra che il terzo posto sia molto vicino. In realtà ha torto, perché il terzo posto in questo momento è soltanto a due lunghezze. La Fiorentina ha 24 punti ed è quarta in classifica. Il Napoli è a quota 26. Tommaso dalla provincia di Lecce, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Senta, io sentivo prima parlare del Milan, di Allegri. Io sono un tifoso dell'Inter, però vorrei spezzare una lancia in favore di Allegri. Credo che la colpa non sia del tutto sua. Probabilmente lui ha qualche colpa sulla cessione di Pirlo e basta. Poi ci ha pensato la società a mandare via tanti giocatori e a ridurre la squadra a quello stato che si trova adesso. Non credo che un allenatore che vince uno scudetto, magari ne poteva vincere anche un altro. Sì, i famosi 162 punti in due stagioni. Però grazie Tommaso, è anche vero che il Milan non può trovarsi nella situazione in cui si trova, pur essendosi indebolita. Il Milan non può essere una squadra da 14 punti in 12 giornate, da 7 partite perse nelle prime 16 stagionali. Continueremo a parlarne dopo il GR. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, leggeremo anche i vostri messaggi, ne stanno arrivando tanti. GR Il nuovo insieme 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Dario Ricci da San Siro, c'è qualcosa su Allegri? Ma notizie no, ma certo l'atmosfera è molto molto calda intorno al tecnico del Milan, tutti a scuotere la testa in sala stampa. Ti cito questo piccolo aneddoto, Giovanni, mentre dai microfoni delle varie TV Allegri faceva la sua autodifesa, di fatto, che coincide con l'analisi della sconfitta con la Fiorentina, parole che non hanno certo convinto. E poi subito occhio al calendario, perché sabato c'è Napoli-Milan e subito dopo arriva in Champions League la decisiva trasferta di Bruxelles. Quindi, sì, e dopo c'è la partita contro la Juventus, così giusto per gradire. Questo è il calendario del prossimo mese del Milan: Napoli-Anderlecht, Juventus, Catania in trasferta, Zenit e poi Torino in trasferta. Questo nei prossimi 30 giorni, davvero un calendario difficile per il Milan. Su Twitter ci scrive un amico, Matt: il Milan non ammetterà mai di essere mediocre, ma credo che Allegri abbia ancora troppo poco tempo a disposizione e dal prossimo certamente scatterà la rifondazione. Grazie a Dario Ricci, ci vediamo in studio per il basket. Grazie Dario da San Siro. Una battuta velocemente di Lotito, poi c'è Giovanni Stroppa con noi. Lotito, necessitavano delle, io me la ricordo forti. Diversamente Presidente, ma sinceramente io quelle mie azioni erano volte a creare cambiamenti. Per cambiare bisogna, Bagone diceva tabula rasa, quindi forzare le situazioni anche con atteggiamenti che potevano essere considerati come Renzi nel PD. Ma adesso non lo so, guardi, non mi accomuni a situazioni che non mi appartengono. Non andiamo nella politica, non andiamo nella politica. Era Lotito ai microfoni di Sky Sport. Buon pomeriggio Giovanni Stroppa. Buonasera a voi. Buonasera Stroppa, volevo capire se la notte aveva permesso di metabolizzare la serata difficile del Pescara ieri sera, la sconfitta 6-1 contro la Juventus, anche se poi credo ci sia molto da dire anche sulla partita di ieri. Beh, devo dire no, non ancora, finché non inizierà la settimana sul campo penserò sempre a questa, a questa partita appena passata. Anche se, come mi ha anticipato lei, sicuramente ci sono anche delle situazioni dubbiose, mi riferisco a qualche aspetto arbitrale, ma più che altro per le cose che poi rimangono piacevolmente nei miei occhi, a vale a dire alle occasioni che comunque abbiamo creato sul 2-1, sul 2-0, perlomeno abbiamo cercato per almeno una mezz'ora, dal quarto d'ora iniziale fino alla fine del primo tempo, di potercela giocare alla pari contro una squadra eccezionale. Sì, perché c'è stato un inizio in cui davvero il Pescara ha fatto male, evidentemente. Io credo avete sofferto anche l'impatto con la Juventus e con tutto quello che rappresenta in questo momento, però io credo sia anche un merito per una squadra come il Pescara, una squadra giovane, una squadra che è evidentemente costruita per lottare per la salvezza fino all'ultima giornata. Io credo che sia un merito anche sotto 2-0 provare ad avere la forza per provare a riaprirla questa partita. Sì, sì, sì, sì. Io ho ringraziato i ragazzi perché non hanno mai perso la testa, non hanno, o soprattutto non hanno mai abbassato la testa, anche sotto di 3 gol, di 4 gol, il gol subito all'inizio del secondo tempo che poteva chiaramente farci abbassare proprio la guardia, però perlomeno abbiamo cercato di onorare l'impegno, chiaramente contro una Juve così essere sotto di 2-0, reagire in quella maniera lì, devo soltanto che ringraziare i miei giocatori per come hanno cercato di fare la partita e anche come hanno messo in difficoltà la Juventus. Intanto rispondo a qualcuno che al 349-238-6666 ci accusa di essere schierato come tutta la categoria contro Zeman. Assolutamente, anzi io personalmente adoro Zeman. Poi sentir parlare di campo pesante per spiegare la sconfitta in questo derby e la 7ª partita su 12 in cui la Roma prende almeno 2 gol dall'avversario, beh, io credo di poter dire che si tratta di spiegazioni che probabilmente restano quantomeno in superficie, senza voler fare poi una critica eccessiva e ancora più pesante. Stroppa, ieri sera l'ho vista un po' nervoso per le domande sul suo futuro, purtroppo fanno parte del nostro lavoro, però spesso il nervosismo dell'interlocutore è indice di una certezza che viene meno, è vero o no? No, guardi, probabilmente ero deciso a rispondere o perlomeno non avere la solita risposta di retorica, no? Io ve lo posso garantire, magari adesso, magari un pochino anche più a freddo, posso avere quella serenità di potervi rispondere tranquillamente che non è questo il problema, perlomeno che mi riguarda. Io penso al lavoro con la squadra e credo di fare al meglio quello che è nelle mie possibilità. I ragazzi stanno reagendo bene e questo è sicuramente il mio primo obiettivo. Poi a queste domande, siccome le rispondo ogni giorno o perlomeno quasi ogni giorno, vorrei che si facessero alla società. Di fronte a un risultato così, così ampio, sicuramente anche il sottoscritto deve avere delle responsabilità. Non era forse la partita della Juve che poteva darmi o condizionarmi il futuro immediato, sicuramente magari più avanti vedremo cosa accadrà. So benissimo che la classifica è diciamo positiva da una parte ma è critica anche dall'altra. Sì, in fondo basta, il suo Pescara ha 11 basta. Punti, io credo abbia 2-4, le sto contando, almeno 4 squadre dietro, Sampdoria, Genoa, Bologna e Siena, è in un pacchetto con Palermo e Chievo. Io non so dal punto di vista della classifica che cosa si poteva chiedere di più dopo le prime 12 giornate. No, ma io sì assolutamente, i punti che abbiamo me li tengo stretti, sono strameritati, potevamo probabilmente anche avere qualcosa in più, ma so benissimo che a distanza di una partita noi potremmo anche essere penultimi o addirittura magari 3-4 posizioni più avanzate. Lo ripeto da un po' di domeniche, fortunatamente sta andando abbastanza bene, ma so benissimo che non possiamo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, no? Non possiamo assolutamente fermarci e adagiarci a quello che è la classifica che in questo momento ci vede comunque salvi. Certo, la Juventus di ieri sera come l'ha vista, al di là del 6-1, della tripletta di Quagliarella, di questa grande impressione, di questo grande impatto, Juventus che veniva dalla sconfitta contro l'Inter sabato scorso in 2 partite, Nordsjælland e Pescara ha segnato 10 gol. Beh, la Juventus l'ho vista veramente forte sotto tutti gli aspetti, sapevo che potevamo trovare una squadra così e lo hanno dimostrato, forte in tutti i suoi uomini, forte anche mentalmente. E credo che quando una squadra è così mentalmente preparata, così mentalmente Atalanta è difficile per chiunque affrontarla. Ho letto in un'intervista al Corriere della Sera che Giovanni Stroppa ha detto: l'assenza di Conte alla lunga può pesare, manca un mese al suo rientro, fin qui quanto ha inciso? Ma non lo so, io se vado a vedere quello che è successo ieri sera sembrava che Conte fosse in campo, perché comunque una squadra decisa che sapeva quello che stava facendo, che oltretutto voleva ottenere a tutti i costi il risultato attraverso una prestazione con un agonismo da provinciale. Credo che in qualche partita probabilmente Conte poteva essere condizionante stando in campo, ma se torno a quello che è successo ieri sera, sicuramente no. Chiede Pino da Novara se Quagliarella può essere la chiave per l'attacco della Juventus. Ne abbiamo parlato anche in apertura di programma con Walter Novellino, un attaccante che segna un gol ogni 55 minuti, probabilmente merita di scalare le gerarchie interne alla Juventus. Guardi, al di là degli errori, al di là che queste sono scelte di Conte, voglio dire. Certo, ma al di là degli errori nostri che abbiamo commesso ieri sera, credo che di fronte avevamo due attaccanti eccezionali, non soltanto Quagliarella. E se penso che in panchina c'era gente come Vucinic e Matri, senza poi nulla togliere a Bertner, veramente un parco attaccanti di prima scelta come una squadra come la Juve deve avere. Ci aspetta un minuto Stroppa, abbiamo le informazioni sul traffico, poi torniamo da lei. Traffico. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Come un amico da casa, Mr. Stroppa ci chiede se ha visto la partita del Milan e cosa ne pensa in generale comunque della crisi dei rossoneri. No, non l'ho vista la partita oggi. Vedo che comunque sembrava una squadra in ripresa, stavano ritornando giocatori importanti. Non vedendo la partita non so. È strano comunque vedere il Milan 3 punti sopra il Pescara, insolito. Sì, assolutamente, è un dato oggettivo. Si torna sempre a dire che comunque giocatori così importanti che sono andati via, non soltanto Thiago Silva, Ibrahimovic, ma tutti gli altri, da Seedorf a Gattuso, a Zambrotta, a Inzaghi, non per niente hanno scritto la storia del Milan, e non si può dall'oggi al domani pensare di poterli rimpiazzare. Sì, è difficile anche il peso di quello spogliatoio quando cambia in maniera così radicale. Stavo proprio andando a dire questo, soprattutto quando quella maglia lì portata in quello stadio, che rappresenta chiaramente la storia del calcio non soltanto nazionale ma internazionale, è una cosa che non è per tutti, quindi certi giocatori non si possono regalare a nessuno. Intanto a Roma è aperto il processo a Zeman. Lei con Zeman ha vissuto una pagina importante della sua carriera di calciatore, a Foggia nel 1994. Un mio giudizio personale, averlo sentito prima parlare delle condizioni del terreno di gioco, che erano obiettivamente difficili, quelle di questo pomeriggio all'Olimpico, per spiegare un derby che la Roma ha perso e ha perso male, sono tanto suonate da alibi di un tecnico in difficoltà proprio a portare le sue idee, il suo credo, in un ambiente, in uno spogliatoio che in questo momento evidentemente non è ricettivo. Ma questo non lo so, io ho visto molte partite della Roma quest'anno e comunque a volte sono stati sfortunati, a volte magari si vedono i soliti difetti, però comunque è un calcio che fa appassionare, è un calcio che avvicina la gente, che è piacevole, è vero, poi alla fine contano i risultati. Per quanto riguarda oggi, mi sembra che è stato espulso De Rossi. Sì, subito prima della fine del primo tempo. Quindi magari può anche essere stato condizionato da questo, al di là del campo. Certo, non c'è dubbio. Grazie a Giovanni Stroppa. A voi, buonasera. Grazie a Giovanni Stroppa. Sentiamo Ambrosini, Sky Sport. Facendo così, voglio dire, rischi di... Se non sei consapevole del fatto che per venirne fuori non bastano due prestazioni convincenti, allora è giusto che continuiamo a rimboccarci le maniche. Queste sono le parole di Ambrosini, che cerca così di spiegare la crisi del suo Milan, rimboccarsi le maniche. Marco da Pisa, buon pomeriggio. Salve, prego. Io volevo fare un appello a Conte, ecco, volevo dire, perché non fa giocare dal primo minuto questo danese che hanno acquistato dall'Arsenal? Ma perché forse è più scarso degli altri, c'è anche questa ipotesi. Io vorrei vederlo dal primo minuto, poi se è scarso lo sostituisce, però voglio dire, non mi sembra che Matri sia tanto superiore a questo danese o lo stesso Giovinco. Sì, però ad esempio Quagliarella, visto in questa stagione, credo che con Bentner se la possa giocare. Io le do due numeri sull'attacco della Juventus, a parte Giovinco che è il più utilizzato e subito dopo viene Vucinic che in realtà viene considerato davvero l'unico intoccabile e non gioca soltanto quando non sta bene. Matri ha giocato fin qui 455 minuti, poco più di Quagliarella 446, ma non è che Bentner ne abbia giocati molto meno, però non ha inciso e io credo che difficilmente la Juve possa ripartire dal danese. Più facile che riparta magari da Quagliarella prima che a gennaio scatti l'assalto a prezzi di saldo all'Oriente, che segnalo però fin qui in stagione ha segnato soltanto un gol all'inizio di settembre e sta vivendo un campionato difficilissimo con l'Athletic Bilbao. Roberto da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. No, si ritorna sempre sul Milan. Guardi, io la vedo così. Se non, a loro non li va più Allegri, che lo dicono, a me piacerebbe molto Mauro Tassotti. Poi per farla finire al campionato, dopodiché si vedrà. Se poi anche il presidente non può più permettersi di spendere, che lasci pure, ecco. Sì, Roberto, mi scusi, ma io non capisco quale possa essere il cambio però con Tassotti al posto di Allegri. Tassotti, e lo hanno detto tutti e anche soprattutto quelli che conoscono da vicino le dinamiche dello spogliatoio del Milan, è il tattico di Allegri, condivide con Allegri gran parte delle scelte che vengono fatte in questo momento e difficilmente potrebbe costruire una squadra diversa. Ho capito. Lei cosa ne pensa? Può darsi che abbia anche ragione anche lei, però dico, se non lo vedo di buon occhio all'Allegri, domenica per domenica hanno sempre un processo, appena perde una partita o che non va bene le cose, gli va su da addosso. Io non è mai tranquillo neanche lui stesso, al di là che magari sbaglia qualche informazione o... Però non la vedo giusto, insomma. Sì, di sicuro è un allenatore in difficoltà. Grazie a Roberto. Daniele da Roma, buonasera. Buonasera. Immagino non Daniele De Rossi. No, io chiamo per... ho sentito l'intervista di Zeman. Sì. E volevo dire, a me sembra una cosa innanzitutto poco professionale accusare la Lazio di essere una squadra che gioca con i lanci, mentre la squadra è molto più tecnica. E la seconda cosa mi sembra una cosa un po' poco professionale, il fatto di affrontare un campionato come quello italiano, che lo stesso Mourinho definisce... cioè dice che ogni squadra è molto organizzata, affrontarlo con una difesa fatiscente, perché la Roma è una difesa fatiscente, quindi forse sarebbe il caso che facesse un mea culpa della squadra che mette in campo, dell'organico che ha, piuttosto che scaricare sul campo e sulle qualità che non hanno i suoi giocatori. Daniele, sentiamo insieme Baldini ai microfoni di Sky Sport, poi chiudiamo il ragionamento. No, partiamo magari dal discorso De Rossi, perché abbiamo dato una notizia che è andata a chiedere scusa appunto a Mauri, però è già arrivato un provvedimento, quello di Cesare Prandelli, che lo ha escluso per il codice etico della nazionale. Vogliamo sapere anche il punto di vista della società e se ci saranno provvedimenti. Sentiamo Baldini. No, il punto di vista della società è piuttosto chiaro, loro sanno che quando ci incorrono in questo tipo di reazioni o comunque di atteggiamenti sono passibili di una ammenda che va valutata in base al numero delle giornate che avrà di squalifica. Ecco, ma perché vi abbandona il giocatore insieme a Totti con più esperienza, uno che ha 82 presenze con la nazionale, uno che è stato utilizzato oggi da regista come voleva da Zeman? Ecco, perché ancora questi atteggiamenti? Ma io l'avevo visto dopo la prima partita, ho parlato e anche l'ho visto molto determinato, molto carico, aveva tantissima voglia di far bene, di spendere ogni cosa per poter per poter arrivare a un risultato positivo oggi. Ci teneva tanto e probabilmente il fatto di vederci in vantaggio, giocare piuttosto anche un buon calcio, che poi una partita che è cambiata quando si è messo a piovere in maniera piuttosto evidente, tanto da condizionare le condizioni, scusate la ripetizione, tanto da pregiudicare le condizioni del campo, e in quel momento c'è stata un'altra partita, vedersi dall'1-0 con una squadra che stava giocando bene improvvisamente sotto 2-1 per due episodi assolutamente occasionali e sfavorevoli, probabilmente l'ho portato a fare quel qualcosa in più, voleva segnare su quel calcio d'angolo, si sentiva strattonato da Mauri e l'ha portato a questa reazione. Sì, io credo che anche le spiegazioni di Baldini, e chiudiamo anche con Daniele da Roma, io non so se la convincano le spiegazioni di Baldini sul gesto di De Rossi. Daniele? Ma De Rossi non è che sia nuovo a questo tipo di gesti, Non si discute la qualità del campione, però mi sembra che non sia nuovo, era già successo anche con la maglia della nazionale, quindi voglio dire, cioè, non ha senso giustificare una persona che già ha commesso questo errore in passato, quindi significa che ce le ha nel suo repertorio, almeno io ritengo sia questa la motivazione. Sì, e poi certamente l'area del derby è un'area che fa male ai romanisti che vivono la città, in passato è capitato anche a Francesco Totti. Grazie a Daniele. Emanuele da Napoli, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Salve. Senta, io vorrei fare una domanda proprio riguardante il Napoli. Prego. A prescindere che oggi si è capito che il Napoli ha bisogno di un vice Cavani, perché un Cavani visto giovedì col Dnipro in Europa League e oggi è un giocatore spettacolare, eccellente, ma mettiamo il punto malaguratamente si dovesse far male, il Napoli non può giocare con il Pandev di oggi, che a prescindere si è fatto male ma non ha dato tanto, e con il solito Vargas che a gennaio è meglio che il Napoli lo faccia giocare da qualche altra parte e cambi. Sì, e poi c'è Insigne che invece oggi ha segnato e mi sembra sia un talento che merita dello spazio. Oggi è stata la giornata, e lo abbiamo detto in apertura, in cui tanti giovani si sono fatti valere. Io non so se nelle idee di Mazzarri per il prosieguo di questa stagione c'è un po' più di spazio per Insigne, che non è certamente una prima punta e il Napoli l'ha bisogno, ma probabilmente può essere una risorsa utilizzata di più. Lei cosa ne pensa, Emanuele? Sì, sicuramente, ma infatti oggi il prepartita metteva in formazione titolare proprio Insigne, perché il Pantev già si è visto da due giornate a oggi che era un po' spento, poi non so per quale motivo il tecnico abbia scelto di far giocare Pantev. È brutto dire che per fortuna che si è fatto male Pantev è entrato Insigne, però oggi è stato così, perché da quando è entrato Insigne in campo e soprattutto la chiave tattica di oggi al mio parere è stata l'uscita di Campagnaro. Perché uscito Campagnaro, è entrato Mesto e il Napoli si è piazzato 4 in difesa e ha giocato molto meglio di tutte le altre volte con la difesa a 3. Sì, io credo che quello che conti, e la ringrazio Emanuele, è che Mazzarri in questo momento ha in mano Napoli, il Napoli e il suo progetto, e l'ha spiegato con parole sue raccontando come questa partita è cambiata in un confronto in spogliatoio nell'intervallo. A me ha ricordato questa partita molto da vicino quella che il Genoa ha perso sempre in casa contro la Juventus, dominando il primo tempo e facendosi travolgere nell'ultima mezz'ora. Allora erano entrati Vucinic e Asamoah e avevano cambiato faccia alla Juventus. Oggi il Napoli è stato capace, al di là di qualche correzione tattica che lei in maniera molto attenta ha colto, il Napoli è stato capace di emendare da solo i suoi errori del primo tempo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità. Quando torniamo parliamo con Delio Rossi, parliamo della Lazio e della Fiorentina. Pubblicità. Genoa-Napoli è finita 4-2 per il Napoli, lo dico a Michele che ci ha scritto al 349-238-6666 lamentandosi: è un'ora che sono sintonizzato sulla vostra radio e sembra che nemmeno Genoa e Napoli esistano. A me non sembra, ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato abbondantemente. Buonasera Delio Rossi. Buonasera a voi. Buonasera mister, abbiamo parlato poco ed è colpa nostra, perché poi in realtà il processo a Zeman, a De Rossi, la crisi del Milan ci hanno portato giornalisticamente a inseguire altri temi. Abbiamo parlato poco di Lazio e Fiorentina, che in questo momento sono rispettivamente la quinta e la quarta forza di questo campionato e che escono rafforzate, mi sembra, da questo turno. Lei cosa ne pensa? Assolutamente sì, la classifica dice che si sta creando un solco tra le prime e quelle sotto che qualcuna sta facendo un campionato anonimo e altre che invece dovranno lottare per salvarsi. Lei oggi ha visto che partita? Io ho visto il derby. Cosa ne pensa? È una gara decisa da episodi su un campo molto difficoltoso per l'acqua e devo dire che sarebbe stato bello vederlo 11 contro 11 secondo tempo, perché sicuramente la Lazio poi essendo in vantaggio di 2-1, 10 contro 11, sapendo poi come giocano le squadre Zema, che giocano tenendo le distanze, giocando in maniera abbastanza codificata, venendoti a mancare un uomo, sicuramente non è stata agevolata. Sì, a maggior ragione una follia quella di De Rossi, però ne abbiamo parlato abbondantemente. A me piace più invece parlare di questa Lazio che zitta zitta è a quota 22. Io credo che l'arrivo di Petkovic sia stato circondato anche da ironia quest'estate. Penso che oggi, che sono passati 3 mesi, nessuno si permette più di mettere in discussione la scelta di Lotito. No, ma Lotito ha fatto una scelta... Sicuramente ce l'ha scelto, lo titolare significa che ha delle caratteristiche che possano permettere di guidare una squadra come la Lazio, però non dimentichiamoci che la Lazio ha tenuto lo stesso organico, gioca con gli stessi giocatori e già da 3 anni e 2 anni è arrivata quarta, un anno per differenza reti non è andata in Champions. Penso che l'intelligenza di Petkovic sia quella di essere appunto entrato in punta di piedi, ha cambiato qualcosina, tipo la posizione di Hernanes, e poi ha mantenuto lo stesso telaio. Questo penso che sia sinonimo di intelligenza. Ma la corretta dimensione di questa Lazio, e poi il discorso può essere esteso anche alla Fiorentina, in fondo sono lì a 2 punti la Fiorentina, a 4 punti la Lazio dalla terza posizione che oggi è occupata dal Napoli. L'esatta dimensione qual è? E poi qual è il vero obiettivo? Ma penso che queste squadre possano lottare addirittura per il terzo posto. Allora, c'è qualche problema di collegamento. Io chiedo in regia se richiamiamo Deglio Rossi, così completiamo la nostra chiacchierata. Vale la pena leggerla questa classifica nelle prime posizioni: Juventus 31 punti, Inter 27, attesa questa sera dalla gara di Bergamo contro l'Atalanta, Napoli 26, Fiorentina 24, Lazio 22, poi c'è un solco e dopo il solco c'è la Roma a quota 17 e via via a scendere tutte le altre. C'è l'Udinese a quota 15, c'è il Milan con il Torino a quota 14 e questa classifica la chiudono Genoa, Bologna e Siena, 9, 8 e 7 punti rispettivamente. A proposito di risultati, 1-1 in questo momento, stiamo parlando di Premier League, tra Chelsea e Liverpool, una partita che il Chelsea stava vincendo per 1-0, rete di Terry e poi ha pareggiato Suarez nel finale, ma una partita che interessa da vicino gli amici juventini proprio per l'infortunio di Terry, che verso la fine del primo tempo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Per lui si teme un brutto infortunio, qualcosa che quasi certamente lo terrà lontano dai campi di gioco e non gli consentirà di prendere parte alla sfida di Champions decisiva del 20 novembre contro la Juventus. Sempre a proposito di Premier League, ha vinto 2-1 il Manchester City contro il Tottenham, vittoria all'ultimo respiro con la firma di Edin Dzeko e quindi Mancini respira. Ha vinto 1-0 il West Ham in trasferta contro il Newcastle. In Spagna all'intervallo sta stravincendo e non potrebbe essere diversamente il Barcellona, che è avanti 3-0 a Mallorca, le reti di Xavi, di Messi e di Teglio. Giuseppe da Milano, mentre cerchiamo ancora di recuperare la linea con Deglio Rossi. Buonasera Giuseppe. Sì, buonasera. Prego. Niente, io volevo parlare un attimo del Milan, ma velocissimamente. Prego. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto, penso un paio di telefonate fa. Brava persona, tutto quello che vogliamo. Allegri. Secondo me, esatto, ha fatto il suo tempo. Secondo me non è più la persona che può dare la scossa che si vuole oggi al Milan. Ma a mio avviso abbiamo dei giocatori che non sono da quintultimo o sest'ultimo posto, non lo so. Presi uno a uno, non dico siamo nei primi tre come forza del campionato, ma comunque nei primi cinque ci saremmo se li mettiamo insieme e li facciamo giocare in una squadra. Oggi per me Allegri non sa più ispirare, probabilmente è vuoto, ho sentito la conferenza stampa di ieri, ha preso anche le distanze della società, a mio avviso vuole anche farsi mandare via, magari farsi pagare giustamente perché ha un contratto fino al 2014, però insomma tra Galliani e Berlusconi devono decidersi, e darei in mano a Tassotti, non andrei a far grandi spese. Tassotti conosce l'ambiente, secondo me tutti vogliono bene a Tassotti, vediamo succede. Io l'obiettivo che avrei quest'anno è Europa League, andare bene. Sì, ma ad andare bene, perché il Milan è lontano, lontanissimo anche da quelle posizioni. Grazie a Giuseppe da Milano, è tornato con noi degli Orossi. Stavamo parlando a proposito di obiettivi, invece degli obiettivi di Lazio e Fiorentina, che sono molto più vicini a quella terza posizione. Rossi. Sì, sì, ma devo dire che la vera sorpresa del campionato è la Fiorentina, perché gioca un buon calcio, si sta meritando i punti che ha in classifica e ha fatto una cosa che io ho vissuto, l'avevamo decisa assieme, ha fatto una rivoluzione, ha cambiato completamente la squadra, l'ha fatta con un giocatore di qualità e i risultati si stanno vedendo. Io sono praticamente contento, anche perché so della passione della gente di Firenze, so della passione della società, e quindi mi dispiaceva vederla magari due anni di fila nella parte bassa destra della classifica, che secondo me è una città, una società che non merita. Questo per dire che quando c'è un progetto anche le rivoluzioni in realtà possono aprire la strada a delle stagioni importanti. Forse la differenza tra la Fiorentina e altre squadre, fra queste mettiamo anche il Milan, è che in realtà il progetto non c'è stato, o è stato cambiato in corsa, o forse non è stato pienamente condiviso da tutte le componenti. No, nel senso che c'è la Fiorentina, ha fatto un progetto a rivoluzione, ma l'ha fatto con giocatori di qualità, che Pizarro, Borcavalero, Quadraro, Roncaglia, Rodriguez, il portiere, sono giocatori di qualità. Penso che il Milan, non dico una cosa nuova, che nel momento stesso che ha perso due giocatori fondamentali, però penso che ha perso anche i senatori, secondo me non sono stati forse adeguatamente sostituiti, magari per tempo, sapendo che i senatori li avresti perso, magari con dei giocatori che dopo un anno sarebbero tornati alla bisogno, invece sono arrivati altri giocatori magari gli ultimi giorni di mercato, magari questo non è un mercato da Milan. No, forse avendo la consapevolezza un paio di mesi prima che Ibrahimovic e Thiago Silva sarebbero potuti partire per questioni di bilancio che sono comprensibilissime vista la situazione generale non solo delle aziende di Berlusconi ma dell'economia italiana, si poteva fare qualche sforzo in più per mettere le basi per la permanenza ad esempio di Nesta e Gattuso in quello spogliatoio. Invece Nesta e Gattuso hanno vissuto una parte finale d'inverno e una primavera in piena rottura con Allegri e al momento del rinnovo io credo anche legittimamente si siano tirati indietro. No, ma io invece dico esattamente il contrario, cioè nel senso stesso che tu sai che per questioni anagrafiche o per scelte economiche andavano sostituiti. No, nel senso che sai che fino a anno tu non avrai più né Nesta né Gattuso e né Seedorf, e quindi una società come il Milan deve pensare magari un anno prima che l'anno dopo non avrai questi giocatori. Poi ti arriva una proposta indecente per Thiago Silva e Ibrahimovic, questo non lo sapere, puoi anche accettarla e l'hanno accettata, ma questo io lo riesco a capire meno l'altro, perché nel momento stesso che tu, con tutto rispetto, sostituisci Nesta con Acerbi, ad esempio, che è il difensore centrale arrivato insieme a Zapata quest'anno. Sì, stiamo parlando del Milan sotto questo punto di vista, quindi significa che in un certo qual senso vuoi fare un campionato magari di un altro livello, oppure vuoi costruire per il futuro, ma lo dici alla tua gente, quest'anno sarà un anno di transizione, speriamo di gettare le basi per il prossimo anno. Per chiudere degli Orossi, questa sera Atalanta-Inter, in tanti hanno scritto che è il vero banco di prova per Stramaccioni, perché per la prima volta in questa stagione l'Inter ha tanti infortunati, perché potrebbe essere costretto a ridisegnare questa difesa a tre che nell'ultimo mese lo ha trascinato in alto, perché potrebbero mancargli uomini importanti a partire da Cambiasso. Cercheremo di capire nel prossimo quarto d'ora se Cambiasso è destinato a giocare o no, e perché se l'Inter non non passasse a Bergamo, in fondo la Juventus sarebbe di nuovo lontana. È davvero così importante questa trasferta? Sì, però penso che l'Inter è un'organica importante. Mi sembra che poi il suo allenatore non è che sia schematizzato su un sistema di gioco, no, solo sulla difesa 3, perché ad esempio giovedì ho visto giocare con la difesa 4 e vedo che i giocatori riescono a recepire anche abbastanza bene. Secondo me alla lunga può essere anche un limite, paradossalmente, non avere un sistema di gioco. Invece sono convinto che molti sono convinti che cambiare sempre faccia bene, secondo me, a meno che sei proprio forte degli altri, ma il campionato ci dice che cambia poco. Chi tiene lo stesso allenatore, che ha un progetto di gioco, sta davanti in classifica. Non c'è dubbio. E sto parlando di Lazio, sto parlando di Juve, sto parlando di anche Napoli. Del Napoli, certo. E quindi significa che la programmazione paga. Poi è chiaro che se uno il risultato, io penso che la strategia deve fare il risultato domenicale, molte volte invece succede il contrario, che il risultato domenicale fa la strategia, secondo me lascia il tempo che trovo. Grazie Delio Rossi. Grazie a voi. Grazie Delio Rossi, buona continuazione di serata. Intanto ci scrive un amico al 349-238-6666, Delio Rossi è un grande, fossi in Galliani lo prenderei subito, perché può essere il traghettatore giusto per il Milan. Antonio da Isernia, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Ecco, signor Capuano, io innanzitutto le volevo dire che a me Allegri non mi ha, da quando è al Milan, non mi ha convinto nemmeno, non per un minuto, ma nemmeno per un secondo. Neanche quando ha vinto lo scudetto? No, glielo dico proprio con tutta l'onestà possibile, ma perché non è adatto al Milan, non è adatto a questa società per questa tradizione del Milan. Però io ci tengo a sottolineare una cosa che non va assolutamente sottovalutata, anche sentendo prima Ambrosini che ha detto ci rimbocchiamo le maniche. Allora vuol dire che la partita con il Chievo e quella di Champions League non è stato altro che un grande fuoco di paglia, perché non è solo l'allenatore ma sono anche i giocatori. Io vorrei capire fino a che punto è l'allenatore, però siccome l'allenatore che paga, io voglio dire che Allegri non può restare di più un solo minuto in più sulla panchina del Milan. Ho l'impressione che forse non solo un minuto in più, però l'abbiamo visto prima con Dario Ricci, il calendario del Milan nelle prossime due settimane, calendario durissimo, sarebbero sufficienti Napoli, Anderlecht per quello che vale in Champions League e poi la partita con la Juventus per segnare una stagione. Vedremo se e come ne uscirà Massimiliano Allegri. Grazie ad Antonio da Isernia, ci fermiamo, un minuto di traffico. Intanto io saluto Dario Ricci, reduce da San Siro. Ciao Giovanni, ciao, buonasera a tutti. Però qui in veste di esperto di pallacanestro, perché alle 20.30 a Radio 24 Palla Spicchi vi racconterà la coda di questa giornata, la settima in Serie A. Io saluto anche Gigi Datome, buon pomeriggio, anzi buonasera Gigi. Buonasera a voi. Allora, qualche risultato, siamo intorno al quindicesimo minuto, un po' su tutti i campi, Sassari sta vincendo 42-27, dunque sta vincendo largo su Avellino, poi più 12 di Cantù su Cremona 35-23 e Varese che sta vincendo 30-26 in trasferta contro Biella. Siamo un po' più indietro col cronometro, siamo al dodicesimo, Montegranaro 23, Reggio Emilia 22, siamo al quindicesimo a Caserta, Juve Caserta 17, Bologna 13 e siamo al tredicesimo anche a Brindisi, dove Brindisi sta vincendo di 7, 19-12 sulla Scavolini. Questa sera alle 20 a Milano c'è Armani Venezia e poi domani la partita che interessa Gigi Datome, la partita tra Roma e Montepaschi Siena, che è il Monday Night della nostra pallacanestro. Come l'aspettate questa partita, Gigi? Perché non è più la Siena del passato, non è ancora forse la Roma del futuro, però zitti zitti siete lì a pari punti con la Montepaschi. Beh sì, speriamo di essere a pari punti anche a fine campionato, ma purtroppo sono solo 6 partite, sono passate, però affrontiamo questa sfida chiaramente aperto, consci che sarebbe un'impresa vincere, però chiaramente non abbiamo nessun timore. Stiamo lavorando benissimo, abbiamo fatto il nostro fino adesso, fino a questo punto del campionato. E, viviamo chiaramente queste partite dove si giocano squadre contro squadre più forti con grande eccitazione dell'ambiente, sia della squadra che del pubblico che sicuramente domani riempirà il Palatiziano. Sì, tu dici squadre più forti, a me sembra che questo campionato, almeno in questo momento, non abbia ancora espresso pienamente i suoi valori. Del resto basta leggere la classifica, c'è in testa Varese che sta vincendo ancora Biella, c'è poi Sassari che sta vincendo largo contro Avellino, e dunque questo momento magico è destinato a proseguire, ma io penso sia nella logica di questa stagione che alla fine emergano, siano destinati ad emergere poi veri valori. In questo momento c'è spazio un po' per tutti. Ma no, io penso che chi ha fatto bene all'inizio come Varese e Sassari possa dire ma loro durante tutto il campionato, specialmente Varese che non fa le coppe. Poi chiaramente squadre del calibro di Milano che hanno dei campioni come giocatori magari tarderanno a ingranare. La stessa Cantù ha perso qualche partita appunto per il dispendio di energia in coppa. Però bene o male l'inizio mi auguro che sia così tutto il campionato, perché vorrebbe dire che Roma è nelle prime otto. Ma poi abbiamo bisogno di un campionato equilibrato. Dario Ricci, Gigi, per te domani è anche l'incrocio con quella Siena dove sei stato grande speranza ma forse ancora acerba, no? per sfondare, ecco, a distanza di qualche stagione hai la sensazione, il gusto amaro di un treno ormai perso, qualche rimpianto, oppure non era il posto giusto per te? Ma ormai è passata una vita, lì sono andato via che avevo 19 anni e quindi chiaramente la mia voglia di stare in campo, di poter migliorare, quindi avere il tempo di sbagliare, non coincideva con le ambizioni di Siena, con quel ciclo che si è aperto 6 anni fa e che tutti conosciamo. Chiaramente senza rimpianti sono andato a cercare fortuna altrove, prima a Scafatti che mi ha dato possibilità di emergere e poi sono venuto a Roma per le ultime 5 stagioni. Dario. Una Roma tra l'altro che quest'anno, diciamo, c'era stato addirittura il dubbio sull'iscrizione, sul proseguire, che ha scelto proprio in te un franchise man, diciamo, all'americana, no? L'uomo franchigia. Credo che sia anche un segnale importante a tutto il basket nostrano. Si può credere e puntare forte anche sui giocatori e sui campioni italiani, no? Ah sì, l'auspicio è quello, sicuramente le regole che ci sono adesso non danno spazio agli italiani, però il ridimensionamento del budget di tante società hanno portato stranieri di più bassa qualità rispetto al passato e quindi nonostante le regole contrarie gli italiani stanno emergendo. Io sono felice chiaramente che Roma abbia scelto di puntare su di me e spero di poter ripagare questa fiducia del presidente e della società per tutta la stagione, però obiettivamente sono pochissime società che hanno fatto la stessa cosa. Sì, non è detto che la dieta, che pure è un passaggio doloroso in un momento di crisi che va ben oltre la pallacanestro, il calcio, più in generale il movimento dello sport, alla fine non possa anche essere un momento e un punto da cui ripartire per costruire qualcosa. Ma sì, si spera che appunto abbiano successo le squadre che magari hanno meno soldi ma hanno più idee, e questo sicuramente è stato l'obiettivo della Virtus in estate. Alberani e Totti con Calvani hanno fatto delle ottime scelte perché hanno scelto dei giocatori che pur di venire a Roma e credere nel progetto hanno scelto di guadagnare meno soldi in altre situazioni. Per adesso la scelta è stata vinta. Grazie a Gigi D'Atome. Grazie a voi, buonasera, arrivederci. Grazie a Gigi D'Atome, impegnato domani contro la Montepaschi. Siena, rapidamente i risultati: Sassari 48, Avellino 34, siamo al 18esimo, Cantù 43, Cremona 29, siamo al 19esimo, 18esimo anche a Biella dove vince di 5 Varese 35-30, 15esimo a Montegranaro, la Sutor è avanti su Reggio Emilia 28-24, Juve Caserta avanti di un punto su Bologna 19-18 al 17esimo e poi questa sera alle 20 Emporio Armani Milano contro Venezia. Questo è il programma della settima di basket. La coda ve la racconterà Dario Ricci a partire dalle 20:30 in Pallaspicchi, poi alle 22:45 le voci del posticipo di calcio in tempi supplementari, Atalanta-Inter particolarmente importante per la vetta e non solo di questa classifica di Serie A. Noi ci fermiamo, un ringraziamento a Valeria Bernardi e Roberto Scaltritti che si sono alternati in regia, al preziosissimo Giorgio De Luca in redazione. L'appuntamento con lo sport, oltre agli appuntamenti che vi ho già ricordato, domani a partire dalle 14, tutti convocati con Carlo Genta. Un saluto anche da Giovanni Capuano.